Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Riprendiamo nella puntata del Pioniere il tema di questo racconto, La bambola brutta, di Renata Viganò. Morena, la nostra inviata, è andata a incontrare queste ragazze della Brigata Viganò che hanno creato questo libro. Il libro intanto è La bambola brutta, scritta da Renata Viganò. Queste ragazze hanno sentito l'esigenza di riproporre un racconto attraverso la formula dell'albo illustrato, un racconto della lotta partigiana legato appunto alla resistenza, e per riproporlo nelle scuole. Trovando una scrittrice che è Renata Viganò, che è stata una partigiana, un intellettuale, ed è l'autrice di alcuni libri, tra cui appunto quello più famoso, L'Agnese va a morire, ma è stata anche giornalista, e che pubblicò per la prima volta nel 1960 questo racconto, La bambola brutta, sul giornalino Il Pioniere, al tempo diretto da Dina Rinaldi. Dobbiamo solo aggiungere che, rispetto a quanto ha detto la coordinatrice Tiziana, allora era difficilissimo reperire il materiale dal Pioniere, oggi invece basta andare sul pionieri.org, cliccare nel reparto Pioniere, nel 1960, numero 9 febbraio, pagina 7, e si ha la fonte della bambola brutta. L'esigenza nel 1960 che ha sentito Renata Viganò di scrivere questa favola per ragazzi, che poi è stata pubblicata dal Pioniere, è la stessa esigenza che probabilmente sentono oggi queste studentesse che hanno rieditato questo albo illustrato, che è quella di riportare il discorso della resistenza ai bambini, che significa che anche all'epoca, dopo solo 15 anni dalla fine della guerra, i racconti della resistenza, il lavoro, la memoria sui fatti accaduti nelle scuole era già molto molto labile, se ne parlava poco. La bambola anche sembrava in ascolto, con la testa ritta e l'azzurro sguardo in moto. «Questa roba», proseguì la mamma, «dobbiamo nasconderla. Se ce la trovano addosso, saremmo tutti morti». Nel silenzio si udì un cenno di voce di Gidino, disapprovante. «Niente paura», disse subito la mamma. «Io so come dire le cose alla mia bambina. Mi fido di lei. Sono sicura di poterlo fare». Aveva una faccia molto seria e grave, dicendo così, e Gidino tacque. «Dunque», riprese la mamma, sempre stringendo Cicciabelle la bambola, «noi andremo via tra poco, come per una passeggiata. Saluteremo le signore come se nulla fosse e ritorneremo forse domani mattina, domani sera, non so. Dovremo poi pensare a una scusa per il ritardo. Hai capito, Cicciabella?» Era grande, non tanto bella. Appariva sbiadita e vecchia, sebbene ai suoi tempi fosse stata un capolavoro di bambola, e per la sua costosa grandezza rimasta invenduta in una piccola bottega di paese. «È lunga», osservò preoccupata Cicciabella, quando ebbe rotta la scatola e liberata la bambola. L'aveva presa in braccio e i rigidi piedi le arrivavano quasi alle ginocchia. «Guarda, mamma!» insistette. Ma la mamma parlava fitto fitto con Gidino e non le dava retta, e di nuovo la bimba si irritò. Non poteva soffrire la mamma quando si mostrava così svagata. Senza grande amore, solo pensando che era un regalo del babbo e che doveva necessariamente averne cura, cercò di riparare la scatola e di abbellire alla meglio la bambola, mettendole un piccolo fazzoletto azzurro attorno ai ruvidi capelli color di stoppa. Dunque il libro La bambola brutta, storia di Luisa Partigiana, questa favola di Renata Viganò, comparsa a suo tempo sul Pioniere e poi ripresa da queste brigate Viganò, questi ragazzi, cinque ragazzi che lavorano su questa favola, e concentriamoci sulle illustrazioni di Viola Nicolai nel racconto di Marta Selleri. Viola Nicolai è l'illustratrice del racconto. Avete scelto la formula dell'albo illustrato e avete contattato lei. Vi è piaciuto quindi la sua linea grafica, il suo segno? Abbiamo scelto Viola Nicolai dopo aver cercato diversi illustratori, ovviamente diverse ipotesi, sfogliato molti albi illustrati, perché il lavoro che più ci ha colpito di Viola è stato il suo album illustrato La Volpe e il Polledrino, che è un racconto di Antonio Gramsci, uno dei racconti che aveva scritto per i suoi bambini e che Viola aveva illustrato con uno stile, un tratto che ci aveva molto colpito per l'espressività dei volti dei personaggi e la delicatezza anche con la quale si rivolgeva dai bambini. Quindi ci è piaciuto anche che Viola fosse una ragazza, perché è molto giovane, che fosse una donna, dato che alla fine insomma tutto questo lavoro è in gran parte femminile, e quindi Viola non è di Bologna, l'abbiamo incontrata perché ci è venuta a trovare, le abbiamo raccontato il progetto, è stata molto contenta di collaborare con noi. Abbiamo iniziato a collaborare con Viola, che nel frattempo aveva anche cambiato stile rispetto alla Volpe e il Polledrino, a tratti anche notevolmente differenti, come è logico, no, che un artista abbia un'evoluzione durante la sua carriera. Quindi è passata per esempio dalla matita che utilizzava nella Volpe e il Polledrino al pennarello che invece abbiamo in questo libro, insieme all'acrilico per i paesaggi, che ci piacciono molto, siamo molto contente. Tutti gli originali di Viola tra l'altro saranno questa primavera, a partire da marzo, in mostra alla biblioteca dell'Archiginnasio tra marzo e maggio 2018, in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi 2018. Alla mostra saranno presenti tutte le tavole di Viola insieme ad alcuni documenti dell'Archiginnasio. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue, il color della bandiera. un'ultima nota su questo libro, La bambola brutta, storia di Luisa Partigiana di Rosanna Viganò, ed è legata a una sorta di stranissima controcopertina, come ci racconta la coordinatrice del gruppo, Tiziana Roversi. Albo illustrato La bambola brutta, che ha per sottotitolo Storia di Luisa Partigiana, è un sottotitolo che abbiamo aggiunto noi, Renata lo chiamò La bambola. La bambola, poi nel dattilo scritto, aggiunto a mano brutta, quindi questa parola è stata un punto di lunga riflessione per lei. Comunque l'albo illustrato La bambola brutta, storia di Eloisa Partigiana con l'illustrazione di Viola Nicolai nasce espressamente per questo progetto e almeno per il momento non sarà nelle librerie, sarà disponibile per i bambini che partecipano del nostro progetto. Noi non nascondiamo che non ci dispiacerebbe ad un certo punto allontanarci da tutta la parte istituzionale che c'è in fondo. Per esempio c'è un intervento della Presidente Saliera rivolto ai più grandi, non ai bambini come invece le ragazze hanno fatto per la loro parte storica che è chiamata Cari Bambini. Ecco, la parte in fondo è la Presidente Saliera che si rivolge ai più grandi e avvalora ulteriormente questo ruolo istituzionale. Un giorno, togliendo l'istituzione che non può mischiarsi al momento commerciale, perché no? Noi ce lo immaginiamo nelle librerie, perché ci sono quindi un editore che lo ristampa e lo riproduce per tutti. Ci immaginiamo che possa essere così perché lo sentiamo già, insomma, mentre lo raccontiamo, ne parliamo, ci sono persone che ce lo chiedono. Ecco, noi non possiamo disporne se non nel modo appena detto. E le persone lo vorrebbero invece anche per una cosa, un particolare che questo libro ha e che non è mai stato realizzato fino ad ora nei libri per bambini su Bologna, in particolare la copertina, la doppia copertina si apre, c'è un segreto dentro, si apre completamente in quattro e per lasciare spazio ad una mappa di Bologna ridisegnata e segnalata in alcuni punti con i caratteri grandi proprio come serve ai bambini. E che cosa porta questa mappa di Bologna? Porta alcuni luoghi legati a Renata Viganò, la sua casa natale, l'asilo nido a lei dedicato, il parco a lei dedicato, la via Mascarella, ecco, ma porta anche due spazi bolognesi simbolicamente fondamentali, le ragazze ne hanno parlato in molti modi, c'è il Sacrario, dove appunto con l'associazione Prendi Parte vanno da anni a leggere il 21 aprile le cose, quindi abbiamo il Sacrario e il monumento del partigiano e della partigiana di Porta Lame che vengono mostrati, evidenziati e anche raccontati. Con parole per bambini e con caratteri, così come l'intero libro, con un carattere speciale. Il nostro grafico, che si chiama Mauro Lucarini e che si è accollato questo onere completamente a titolo di volontariato, il nostro grafico Mauro Lucarini ha impostato l'intero libro con un font che è un carattere ad alta leggibilità. È un font di Luciano Perondi e Leonardo Romei che si presta e nasce espressamente per tutti quei bambini che hanno difficoltà di dislessia, di quasi dislessia, di insomma una qualche difficoltà di lettura che purtroppo in questi anni è molto diffusa. Insomma, ecco, noi li vorremmo aiutare, vorremmo che questo libro potesse davvero essere letto, superando anche questi ostacoli di ordine pratico che purtroppo ci sono. Col parabello in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto. Col parabello in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Questa era l'ultima voce raccolta dalla Brigata Viganò, questo gruppo di ragazze che hanno lavorato sul racconto che parla di questa bambola brutta. Brutta davvero, ma altrettanto preziosa, perché all'interno nascondeva dei volantini da portare ai gruppi partigiani, quindi la staffetta che doveva passare i terribili posti di blocco dell'esercito nazifascista. Certamente Renata Viganò è famosa soprattutto per il suo libro L'Agnese va a morire, un libro del 49 di ispirazione fortemente autobiografica, una vicenda ambientata nelle valli di Comacchio durante la Seconda Guerra Mondiale, nello specifico nel periodo periodo degli 8 mesi precedenti alla liberazione dell'Italia. La protagonista è una lavandaia di mezza età di nome Agnese, che dopo la morte del marito deportato, non essendosi mai interessata prima di politica, inizia a collaborare con i partigiani come staffetta e pagherà questo coraggio con la morte. Da questo libro è tratto un film del 76, sempre L'Agnese va a morire, diretto da Giuliano Montaldo. Un libro questo che in qualche modo rappresenta per eccellenza la resistenza. Il perché ce l'ha spiegato Andrea Battistini dell'Università di Bologna in un convegno l'anno scorso condotto dal Gramsci, che appunto parlava di memoria e di Renata Viganò. Fascisti son là, avrò vinto, ritornerò. E allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse. E allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse, i fascisti son là. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando ribella. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando ribella. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando ribelli. Pur essendo già una scrittrice con una certa esperienza, il romanzo L'Agnese nasce non dalla letteratura ma dalla vita, dall'esperienza personale. Il racconto è tratto da dei ricordi, appunto, di eventi vissuti. È ambientato nelle valli di Comacchio, come sappiamo, dove la Viganò aveva effettivamente combattuto la resistenza. L'Agnese ha questo che la rende rappresentativa, è un romanzo che è rappresentativo, e cioè, nonostante il titolo, si tratta di un romanzo corale. È un romanzo corale, non c'è un unico protagonista in realtà. L'Agnese è il simbolo di tutte le donne che hanno fatto la resistenza, e quindi c'è un'epopea vera, perché è collettiva, è corale, c'è una guerra di popolo, come si diceva. Se uno va a vedere il lessico, le parole che ricorrono nel romanzo, troviamo una percentuale altissima di nomi collettivi. C'è la gente, c'è il gruppo, c'è il coro, ci sono le file di persone, c'è una coralità. E in fondo anche nel titolo c'è quest'idea, perché c'è questo articolo determinativo, L'Agnese, non Agnese, ma L'Agnese, che è un modo dialettale. È un modo dialettale e diciamo così corale, con cui in quella zona particolare, in tutta l'Italia settentrionale, si chiamano le persone, il nome proprio, il nome di battesimo preceduto dall'articolo. Quindi c'è una epopea che peraltro ha questa caratteristica di non essere enfatica. Ci sono certamente anche nell'Agnese da morire degli atti eroici, però vengono fatti rientrare nella quotidianità. Agnese, prego, siamo tutti affamati. Dai, Agnese. Oh, mi ho un buco nella pancia. Brava. E beh, non si beve. Piano, ti prendi sempre la fetta più grossa. Hai ragione, perché questa è ho detto tutto. Ma tu cosa fai fare con quella faccia da morto? Non vedi che c'è anche là dentro nella tomba? Poi, sai cosa ci mettono dentro la mortadella? Gatti morti, muli vecchi e qualche tedesco. Forse c'è pausa anche che ha visto tua mamma da accidi che è morta. Prese il vino. Litigate come marito e moglie. Perché non mi fate sposare la comandante? Avete sentito? Toniti nemmeno una parola, come se fosse morto un cane. Buono, Zero, è il comandante. Lui sa come si deve fare. La puntata scorsa abbiamo parlato delle graphic novel, fotografando in particolare la casa editrice Becco Giallo. Ma graphic novels è un po' di quelle manie che abbiamo oggi per ribattezzare in modo nuovo delle cose che magari sono più antiche. Se per esempio pensiamo a delle graphic novel ante litteram, è inevitabile che il pensiero corra a Dino Buzzati, perché questo personaggio assolutamente poliedrico, una grande figura della cultura italiana, scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista, nonché poeta, tanto editorialista spesso al Corriere della Sera per lungo tempo, si confrontò più volte con, da una parte, la letteratura infantile. Per esempio nel 1945 pubblicò questo romanzo per bambini illustrato dallo stesso autore, che era la famosa Invasione degli Orsi in Sicilia. Ma più avanti, proprio non per bambini ma per adulti, costruì questo poema fumetti, oggi diremo una graphic novel, è del 69, a seguito del quale gli è stato conferito il premio prestigioso Amelia, che è un'opera a metà tra un romanzo e un fumetto che rielabora il mito di Orfeo Eurydice in chiave pop. E quindi in chiave molto legata al fumetto. Cerchiamo di rievocare questa figura di graphic novel ante litteram, nonché questo lavoro epico di Orfeo Eurydice, seguendo la voce di Maria Teresa Ferrari, una studiosa proprio di Buzzati, e all'interno di questa voce femminile sentiremo una voce maschile, che è quella dello stesso Dino Buzzati. Dino Buzzati era un grandissimo scrittore, giornalista, per me un pittore assolutamente unico. Io dico sempre, quando parlo di Dino Buzzati, che era alpinista, perché lui ci teneva tantissimo a dire che era un alpinista. Poi era saggista, librettista, è stato anche poeta, è stato anche scenografo, ha fatto tantissime cose. Era un uomo, una personalità assolutamente eclettica, che dal 1928 è entrato al Corriere della Sera e quindi come mestiere principalmente ha fatto ovviamente giornalista e scrittore. È difficile dire cos'è un poema a fumetti. È un poema, è un fumetto, chissà, forse è queste due cose insieme, ma soprattutto è una graphic novel. È la prima graphic novel italiana e Buzzati non lo sa. Basta dire che Buzzati, quando ha consegnato in una busta 213 tavole disegnate, le tavole del poema, le ha date ad Almerina, le ha detto: questo libro lo pubblicherai tra 20 anni. Ci sono le sue passioni, ci sono tutte le tematiche su cui lui si è soffermato anche nei libri: il tempo, la morte, l'attesa, il senso della vita. C'è anche il suo essere spesso irriverente, se pensiamo che lui ha preso un poema epico tra i più famosi, quello di Orfeo ed Eurydice, e l'ha trasferito in una chiave contemporanea, e ribattezzando i personaggi protagonisti in Orfi e Neura. Orfi, Dio mio, cos'è successo? Sono qui, sono venuto a prenderti. È una Milano fantastica. In quanti vanno alla ricerca di Via Saturna? Però è una Milano degli inferi. È una Milano che appartiene a molti suoi racconti, anche giornalistici. È una Milano che si ritrova nell'iconografia classica. C'è il Duomo, ci sono le famose case di Buzzati piene di finestre dove dentro chissà cosa sta succedendo. L'altra sera noi eravamo a tavola per il pranzo quando, poche case più in là, una donna ancora giovane massacrava con una spranga di ferro la rivale e i suoi tre figlioletti. Ecco qui Marta. Spavalda, spavalda, sarei sempre tanto spavalda. Vediamo qui in cima il grattacielo. Vedendo di sotto la città risplendere, dolce abisso brulicante di luci, fu presa dalle vertigini. Si sporse perdutamente e si lasciò andare. L'iconografia del poema fumetti in realtà si fonda sulla rielaborazione di una doppia serie di fonti. Perché ci sono quelle interne e ci sono quelle esterne, quelle che lui prende da una quantità di cose che ancora oggi non sono state ritrovate e indagate. Io ho ritrovato persino pezzi di pagine di giornali, di pubblicità. C'è una tavola con le bocche, che io riprendo nel catalogo, dove si vedono le tante bocche fatte da Buzzati, e in questo caso l'aveva vista fare da un matto, un malato di mente, e aveva pensato, beh, posso rifarla, tanto lui non saprà mai che io l'ho copiata. Ma abbiamo anche un impiccato che lui ha preso da un'antologia, un manuale legale, cioè la bellissima Valletta dell'Averno, dell'Inferno, degli Inferi, che è una pifere, che è una delle modelle più amate da Ugo Mulas. Poi abbiamo la protagonista Eura, che è Almerina, giovanissima, bellissima, e di lei ovunque sono rimasti questi quattro occhi, questo volto con questi quattro occhi, che lui dice di aver preso da una stampa giapponese. Perché Poema Fumetti doveva essere pubblicato dopo 20 anni? Perché in realtà il Poema Fumetti è pieno di donne accattivanti, seduttive, di donne nude, molto procaci. Lui ha nel suo archivio una quantità veramente elevata di libretti di Irving Clough. Erano i giornali di Irving Clough dove per la prima volta appariva la pin-up Betty Page. Siccome in Italia c'era la censura, Buzzati si faceva mandare questi giornali dall'America, se li procurava il suo edicolante. Un bel giorno l'edicolante chiama Buzzati al telefono e gli dice: oh signor Buzzati, mi ha preso la polizia, hanno scoperto che avevo delle riviste porno, sono le sue. Lei adesso mi deve venire a liberare. Buzzati ha detto: non si preoccupi, arrivo subito. Siamo nel 69, cioè io quando parlo di Poema Fumetti dico sempre siamo nel 1969, rendiamoci conto, questa opera è veramente antesignana, è modernissima. E con la musica di Ennio Morricone, colonna sonora del film Il deserto dei Tartari, tratto dal notissimo e bellissimo romanzo di Ennio Buzzati, noi ci congediamo questa trasmissione dandovi appuntamento la settimana prossima, sempre con Fumetti a Sinistra, Il mondo dentro i balloon. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare